10. Chi è, chi è? Ciao, sono Carlo. Ciao Carlo, buongiorno. Stai rientrando o stai partendo? Sono in Viale Francesca. Quindi poi ci fai dalle 2 alle 10. A rientro stanotte a mezzanotte. Ah, io pensavo. Alle 10. 2 in meno ti stavo facendo lavorare, quindi finisce a mezzanotte. E vabbè, se vuoi guadagnare bisogna lavorare, ce va quello. Se non ho niente da fare. E adesso sono praticamente davanti al mercato in rotatura del Ponte Rosello, capì? Sì, 6:15, radio 5. Eh sì, dentro la città c'ho l'antenna più grande adesso, non è quella piccola. Eh beh, con l'antenna più grande pompa, te l'ho anche detto, l'antenna piccola non è che serva molto. Ci vuole l'antenna grande, ci vuole, per andare bene 27. Adesso sono fatto davanti a Natino, il semaforo è verde, se ne è aperta. Di solito quando passavo io, tutti io si ritrovavo i semafori, quando uscivo in moto, io dove vado a fare, ma fossi comunista, ragazzi. Tutti russi. E infatti questo, come sono arrivato io, è scattato il rosso, la ragazza manna, già è presto però, sono le 10:20, devo essere là alle 3. E a voglia, lì ci arrivi in un quarto d'ora, ci arrivi. Sì, no, ormai sono già fuori praticamente da qua. Una volta che sono a Predanieta è 30, in 20 minuti andando a 100, senza neanche correre, sono là senza lavoro. Eh beh, quello sì, è aspettato. Ci arrivi in fretta, arrivi. Per carità, adesso tutto il vento di notte, sembrava che ci fosse un tornado alle 2 di notte. A dir la verità non mi sono accorto perché dormivo, anche se me l'ha detto mio figlio. E io mi sono alzato ieri notte a 1:30. Prima ha iniziato questo venticello, ma poca roba, era piacevole anche con le finestre aperte. E ho cominciato questa cosa strana, ho detto boh, cominciavo a sbattere tutto. Ho preso, sono uscito fuori e ho dovuto spostare il piedistallo in ferro che di solito usavo per metterci l'antenna. Non stava spostando il vento con l'ombrello, quello che si usa per andare in spiaggia, però era chiuso l'ombrello, tu immaginati. Allora ho chiuso tutte le finestre, prima che arrivasse qualche passata lì, boh. Dopo ho messo le 5 del mattino, boh, si è calmato tutto. Anche adesso è nuvoloso, però sta facendo di nuovo caldo perché è vero, 31 gradi, invece stamattina quando mi sono alzato, che saranno state le 7:30, 8, si stava bene, cavolo, c'era un bel fresco, perché a casa avevo le finestre aperte, capito, c'ho le zanzariere per cui spalanco tutto, entrava questa arietta bella fresca, ma diciamo che sino alle 10:30, 11 si stava bene, invece adesso la girata in caldo, 31 gradi sono tanti. Ieri c'erano quasi 40, io sono andato con mia sorella perché gli sono arrivati i mobili, ci hanno sceso i mobili, due tipi di Portobello, stavano suonando come due cose, come due maiali stavano suonando. Sono andato al bar lì, alla Kuwait, 39 gradi c'erano. Dentro meno male c'era il condizionatore d'aria acceso, però da dentro a fuori c'era un abisso. Già lo credo. Io ieri mi sono messo a imbiancare, che te l'ho detto, no? Sono andato a Bonotra, ma quell'oretta che stavo facendo mi sono sciolto, capito? Perché lavorando sudi, capito? E poi ho fatto una parete esterna, no? In un terrazzino che c'è dietro il bagno, però è all'aperto. E lì non gira molta aria, cazzo. Gira il sole, tu, cazzo. Mi sono sciolto in sudore. È pericoloso anche lì così. Poi avere un colpo di calore, svieni, non ti conviene più fare le tipeggiature della balleggera all'esterno, e anche all'interno, ma lo vedi che c'è un sacco di caldo, lascia perdere e non fare nulla. Perché come stare dentro la sauna, eh. Ma cazzo, ho acceso il condizionatore ma fa un casino la radio. Non puoi usare il condizionatore d'aria in macchina, se ti beccano ti metto una multa. Adesso l'ho spento e l'ha smesso. Comunque il condizionatore d'aria, quanto sembra, in macchina non si può usare più. Se ti beccano col condizionatore d'aria acceso sono 500 euro di multa. Ma non lo so se è un problema di condizionatore questo rumore o è qualche apparecchiatura elettrica che c'è qua nella zona industriale. Magari anche potrebbe essere, lì è pieno di, lo sai, di tutto c'è di più nella zona industriale. Perché a mettere i cinesimi. Adesso sono lì davanti a Conforama, sto per iniziare la quattro corsie. Sono in pratica di fronte a me. Da qui se prendo il binocolo ti vedo. Allora ragazza, no, è il condizionatore, è la ventola che parte del condizionatore e questa radio prende tutte le interferenze delle cose elettriche. Perché non sono radio filtrate, capito? Sono radio verba. Già lo sai che tu ci vorrebbe un 3009, una cosa del genere, quelle sono radio serie, anche se sono omologate, ma sono serie. È la verità, perché c'hanno i filtri. Ma queste come ce l'ho io, quello piccolino, omologato, ovvia. Sono sicuro che se l'attacco in macchina sento anche quando sotto il vitelgi che sta lì dentro. Ho capito. Sì, qualche sorta di filtro ci devo mettere però. Se no, come attacchi, mi sta iniziando a gocciolare. Sta piovendo praticamente adesso. Qui anche la goccia ne sta facendo di acqua. Strano che non ha segnato acqua oggi, eh. Niente acqua oggi, è strano. Dovrebbe essere solo nuvoloso e basta, acqua niente. Sì, due gocce in croce, giusto per sporcare il vetro, capito? Se lo va a fare, lo va a fare ieri notte l'acqua almeno. Con tutto quel vento che c'è, sembrava la burrasca del coso, essere a Santa Teresa di Galluga ieri notte, sopra al traghetto. No, io sono entrato via adesso, anche perché in camera, cioè, mia nipote è uscita, quindi c'ho la camera libera, capito? Adesso sono andato un po' a baracchino, poi vedo di sistemarmi qualche cosa. E c'è tutto sopra il tavolo, c'è di cacciaviti, pizzi, di tutto. Invece tutti gli apparecchi sono tutti sopra i mobiletti, capito? Messi bene, a posto e tranquilli. 6-8, ma la radio già è buona, 3-4. Ho capito, no, tutto bello già è alto, come zona già. Io tutto bello sentivo un tipo che parlava in GMR una volta. L'ho sentito per 3-4 giorni. Cioè, quindi portatevi, quello era Brundi. Si è messo lì nella zona più alta e tutto bello, arrivava tranquillamente. Un segnale c'era stato, penso 6-7, l'audio c'era perfetto. Sì, io ci arrivo, a voglia. Quei portati li fanno una trentina di chilometri, più alto sei, più in basso. Se c'è qualche ostacolo ti crea problemi, ma quando sei proprio in alto e ti vedi, capito, lì nell'aria, voglia che parli tranquillamente con Sassari. Quindi c'è poco ancora, sentiamo di 7, quasi 8 arrivi, riesce bene. Ma no, io ho dal tubo 2001, non la tubo 2001, come si chiama, la LEM, cioè la come antenna, quindi ce l'ho dall'amico mio, però l'ho pensata, io non lo sto usando, quindi ho detto usala tu in macchina e ogni tanto già l'attacca, ho visto. Non sempre, ma già l'attacca ogni tanto. E già ti sento per forza. Non è quello. Già la conosco la strada, la facevo spesso con un amico mio. La facevo in 500, l'ho fatto una volta. Ci ho messo la tenere il baracchino, ci ho piazzato, il baracchino dentro, il 2009, figurati. SC500. E poi non sapevo mai se tornavo con quella macchina lì, perché era una macchina tutta messa male. Ogni tanto doveva fermarsi, metterci l'acqua, poi ne prendevo l'acqua e bullone ogni tanto. Era un incubo andare con quello là. Poi camminava, era un pericolo pubblico. Sì, quello è modello vecchio, quello è il 500 modello vecchio, mi dia, gli antichi. Era una cosa bella, quello che c'hanno il motore dietro. Ma era un pericolo pubblico lui guidava, per carità. Era peggio del mio principale che ho avuto in Italia, che quando guidava la macchina mi faceva guardare la strada che meglio, che stai sbandando. Cazzo, dalla corsia sua ci usciva dall'altra facendo le curve. Allora un giorno ho detto aspetta un attimo che mi porti la macchina appresso. Avevo preso una magnetica da dentro al negozio, ho detto, aspetta prendo la magnetica e baracchini la ce l'ho, gli ho detto, per sicurezza non per altro, ho detto, almeno qualcuno ho detto, viene a salvarci nel caso, gli ho detto, ci fuori strada. Io ti lascio lì, gli ho detto, beh, me ne vado a casa. Sono con 20 watt, 25 watt tondi. Sì, sempre 7, 8, segnale 9, oscillante. E arrivi bene a voi, anche perché ci corre meno, molto, corre meno poco, meno male, non come una volta, c'avevo quasi 8 e mezzo di dopo di QRM, era una cosa allucinante qua, e invece questa volta io di meno, meno male. E i tedeschi, ieri sera era pieno di tedeschi, ieri notte, acceso verso le robuste, erano state le 8, 8 e mezzo, tutto pieno di tedeschi era. Sì, c'è gente che c'ha anche il baracchino di quelli che hanno stracci, su quelle moto che c'hanno il baracchino. Ma so se mi sembra ce ne sono tre di quelle moto fatte così. E c'hanno un'antenna dietro, un fianco dietro, e c'hanno il baracchino. A volte usano anche il coso, ce l'hanno detto al casco, ho capito, il microfono, l'auricolare con Vox e l'apparecchio dietro, capito? Sì, infatti la GBC ne vende quello, ne vendono parecchi di quelli lì, quello che serve per poter agganciare dentro al casco e parlano tranquillamente tra moto e moto, come si fa adesso con la roulotte, dai, che parecchi camperisti usano o il PMR oppure la 27, ah, Made la CBTAP, quello ce l'ho anche io. C'è anche quello per le cose, per le moto addirittura, l'applicazione, capito? Sì, quello è così infatti. E già sono organizzati ormai, tutti stanno organizzando, i camper, i motociclisti. Ormai le radio sono in tutti i posti, queste radio viene così. Sì, già ti sento ancora. Io non penso che piovano oggi. Nuvoloso, ma non faccio come c'è dall'aria. Chi è l'altro? E chi è? Ciao Antonio, sono Marco, sono spalle al baracchino, sento un amico basso, ma non l'ho riconosciuto. E Carlo, ciao Marco, ben sentito. Carlo, sta andando al posto di lavoro. Ciao Carlo, se mi copi, io ho difficoltà a copiarti, ti sento nel QRM. Già ti sente Marco, ha detto. Carlo, capito? Carlo ha detto che già ti sente Marco, tu arrivi tranquillo Marco. Salutamelo e augurali buon lavoro, dai, fammi da ponte, vabbè lui mi sente perché ho 10 watt e lui ne avrà 3-4, dai. Ciao Carlo, ci sentiamo, se sei quasi arrivato, allora alle prossime, ecco con Marco di salutate, già ti sente, è quasi arrivato all'aeroporto. Ciao Carlo, ci sentiamo alle prossime, buon lavoro, buon tutto, avanti Marco. Idem, ciao Carlo, buon lavoro, buon tutto. Lui Antonio, mi sono aggiornata. Io avevo dormito molto, molto da tardi, quindi ero tutto rimbambito, tuttora. E sono in perigioma a casa perché c'è caldo. E sono con le spalle al baracchino, sdraiato di lungo sul divano. Sto utilizzando quel microfono preamplificato, quell'ultimo, però messo al minimo perché sennò mi fischia qua. è importante che sia timbrica, sia buona. Ma visto che giornata sta tutto coperto, sembrava una sauna fuori. Ieri c'era la sauna alle 2 di sera. 39 gradi c'è qua a casa, sì, qua sotto casa. Sono andato con Giovanna lì al bar a cubita, bermi una cosa, perché sono arrivati i mobili, capito? E quindi siamo andati al bar, ma c'erano 39 gradi, controllato, non si poteva stare fuori. Ho preso la birra congelata, il tempo, quello ti posso dire, 5 minuti era già mezzo calda. Sì, ti devi fare il ghiaccio, i cubetti di ghiaccio preparati, oppure la borsa frigo per il mare, per la tenente sempre carica, magari quelle che vanno 12 volte, capito, in cameretta la tenete. Mi ha dato una buona idea, io non per la birra, perché alcolici così non ne bevo, però per bibite varie e acqua mi sa che me lo installo in camera, quello, quelle borse frigo 12 volte. Sì, io già le conosco, già le valigette che ci puoi mettere la tineretta, che si portano. Sì, io te lo porto fra poco, e quindi una di quelle cose lì. Ci mettete la tira dentro, lo metti in camera dove c'è il boss, basta, mi sembrava 2,20, c'è bisogno di avere l'alimentatore. Ma 2,20 ci metti il ghiaccio dentro e ti tengono la birra, la Coca-Cola, quello che te lo tengo in fresco per almeno 2-3 ore. Sì, cioè, guarda, credo che il modello funziona sia a 2,20 sia a 12, dovrebbe avere due spine, una spina accende i sigari per la macchina e una forse anche per casa a 2,20, per camera di mamma per esempio, mette le lattine, quelle così lì, però che siano non troppo fredde, capito? Magari te le tiene fresche ma non gelide, se no ti blocca lo stomaco. Ce l'ho credo. Io ce l'ho, ho avuto due borse, non borse, due valigette, quando c'era apostolo qui me l'aveva regalato una. Andava a 12 borse, 2,20. Era proprio un frigo, era, capito? Un frigo non molto grande, ci stavano le bottiglie intere dentro. Ci metteva 4-5 e teneva belle fresche, senza metterci né ghiaccio né niente. Sì, già è quello. Ci stanno in piedi le bottiglie da litro e mezzo di acqua, dai, sì, già da me. Ho sentito Simona che ti reclama. Vai, fai come devi fare. Io adesso vi faccio una mezza slippatina, o qui o in camera, tanto in TV non c'è un cacchio di niente di bello. Non so come passerà la serata. In TV non c'è, vediamo che ci sia, c'è Mondezza e basta. Poi altro, c'è solo caldo, io notte lì, mi sono svegliato alle quasi alle 2, è cominciato questo vento forte, sembrava che fosse arrivando un tornado. Sì, ho sentito quel vento forte, anche un po' prima è arrivato qua. E sentivano le tende che sbattevano forte, ho detto vabbè, chissà che sia la volta buona che ne scende l'antenna. Ogni tanto fischiezza, mica lo vedi. Bastano pochi centimetri qua. È una cosa incredibile. Lo fai mai che si abbassa appena con l'effetto tolto di subito. Avanti break, che sì, che ti sei toccato, segnale 7. Sono contento che arrivo ancora. Marco, arrivi all'aeroporto, arrivi benissimo. L'ho copiato, sì Carlo, ti ho capito, adesso sono riuscito a capire più o meno, dai, sì, io qua ci sono 10 watt, non sono molti, però là sono contento che mi ascolti ancora. Poi dentro l'aeroporto non so se si possa modulare per via delle interferenze, di quello non so niente. Fai da ponte Antonè? Tu Marco arrivi a Santiago 9, io arrivo a Fondoscala, lui, lì ai parcheggi davanti all'aeroporto. Io sono di spalle, però sento il segnale suo filo di QRM, cioè se il QRM è 3, lui potrebbe essere 3 e mezza o 4 di segnale, a orecchiometro, dai. Ho capito. Comunque già ci siete tutti e due bene, figurate nei parcheggi. Se fosse stato con l'aereo attaccato a voglia sarebbe uscita una bomba. Allora gli va bene in quella macchina, me. Cambiando la batteria, mettergli le ore a 100 A, un 550 lì va bene, a 12 volt, lì. Col macchina come quello che stai usando tu in casa, Marco, sei un siluro arriva qua, sarebbe arrivato a sazzo lì. Minimo vivo sarebbe arrivato a segnale 9-10. Basta un 747, capito? Un 203 guadagna due Santiago, passerebbe da tipo da 4 a 6 e sarebbe capibilissimo. È che il 747 mi pare che in catalogo la Midland non ce l'abbia più, almeno da quello che ho visto non risulta più sul sito Midland Europa, e non resta che il 203 che poi è identico. Ah, ho capito. Ho aiutato, spariscono questi lineari. Vabbè, adesso mancano i componenti, quindi è un bel di cose che stanno eliminando. E come quando vai dallo spigli, io sono andato dallo spigli, non c'era un uovo a cercare, io che sto a vigilare, ma tutte le uova vi siete mangiate. Dice, no, dice, ci mancano tutti i cose, gli ho detto, non ce n'è manco una. Ho detto, è possibile che siano venute a portarsi via tutte queste uova? Mancava la metà della roba ieri, in questo spigli qua. I tramezzini per dire quelli lunghi, mancavano anche quelli, poi una cosa un po' strana, sembrava che la gente sta facendo il rifornimento di uova per farsi il pane in casa, oppure i dolci. Antonio, secondo me sono crisi pilotate. Beh, c'è chi specula, lo sai, c'è la questione, adesso gira, mi conviene casa mia. Fuori c'è un coniglio, c'è quello di Alessia, e sa che mi compro un paio di galline, ci metto due galline fuori e metto quel patron verde sintetico, li do da mangiare ogni giorno, una volta che fanno le uova e c'ho le uova gratis, non mi serve una pecora almeno per il latte. È la pecora dove la metti, però io non te la violentarmi. No, non la violento la pecora, lì ce la metto in camera, io dormo in camera a letto, la pecora la faccio dormire qui in questa camera qua. Faccio la pecora in camera, ma sto scherzando, ci vuole un recinto, che ne so, un minimo di spazio. Si riempiono la casa lì, allora facciamo la gallina, vabbè, per le uova, la pecora per il latte. Cos'altro ci serve? Una mucca ci vorrebbe per il latte, ma la mucca è ingombrante, che dove la mettiamo? Nel salone? Arriveremo a quello, vedrai, se continuiamo così arriviamo a quello. Certo. E qui sta bene, ma domani non ci manca nulla a noi, siamo gli unici che ci salviamo, ci abbiamo tutto, tra formaggio, latte, uova, eccetera, eccetera, ce lo fabbrichiamo da noi, e meno male, fortunatamente ci abbiamo il grano, perché una volta la Sardegna era il granaio d'Italia, poi con la questione della comunità europea è saltato tutto, perché erano obbligati a comprare da loro, capito? Adesso che è finita la pacchia, vedrai la gente che comincia a metterci un nuovo grano, grano duro, grano tenero, e vedrai come abbassano i prezzi e torna. Ah boh, io non sono un economista, però a me queste mancanze di coso sembrano crisi pilotate, manco fossimo in Ucraina. Vabbè, perché ci specula sopra, Antonio, hai capito? Per gli speculatori vanno bene queste situazioni. Sì, infatti. Il fatto è che tutte le ditte italiane importavano il grano dall'Ucraina, dalla Russia, capito? Quindi era, prima andava bene così, adesso invece ci dobbiamo rimboccare le maniche la mattina, dove ci sono tutti quegli otti vuoti, prende il nuovo mano zappa, eccetera, eccetera, e piantare di tutto di più. E tu vedrai che noi ci arrangiamo per conto nostro. Sì, è così l'olio di semi vari, per dire, per dirne uno, no? Da 1,29 che lo pagavi, quant'era? 1,29, 1,19, 1,30, allora dipende da chi lo compravi. 3 euro adesso, 2,99, quindi 3 euro. Come possano accide. E poi ce n'è, non è a dire che vedi gli scaffali vuoti, c'è carenza, tutto sarà pieno di olio a prezzi esorbitanti. Io già avevo notato, infatti, prima c'era il periodo delle... che la gente andava a comprarsi, a svuotare, capito, l'olio, cioè per comprarsi l'olio per la sua casa come l'acqua, a riempire i carrelli. Infatti c'era il casino che davano la roba a contatto. Eppure guarda che tuttora in alcuni market più di 3 pezzi di qualcosa non puoi prendere, lo sai? Cioè la roba c'è ma non ti fanno riempire il carrello, tipo di... adesso non mi ricordo cosa mi hanno detto, è successo non so a chi. La roba contingentata. Oh, vabbè. Io gli ho inserito in soia, poi qualche gente ci ha comprato la macchina diesel, l'olio di colza, e ci mettono quello, oppure altro tipo d'olio, hai capito, per risparmiare. Tra poco vedrai che si inventeranno il motore con la quarvite. È da provare, mi. Antonio, sai, la motorazione ogni tanto sale, ogni tanto è come ovattata, come se poggiasse il microfono sulle coperte. Ogni tanto sale di botto e sale anche il rumore della ventola. E beh, fischiando, va. Basta un centimetro, va. E vabbè. Devo toccare il microfono solo con la plastica. Se tocco il metallo, fa così, se ne scende. E invece faccio così, solo dove c'è il pulsante della portante, quell'effetto non lo fa più. Devo controllarlo, ma lo vedo in seguito. Adesso a me tutto mi interessa sistemarmi dal limitatore vecchio, in modo da togliere quello che ho messo in scatola, l'ho messo. Però si sente lo stesso, ma si sente molto di meno. Figurati. Quella ventola, caspita, è invasiva però, ma che ventola è? Ventola di alimentatore o ventilatore? Ventilatore personale? No, la ventola è dell'alimentatore cinese, più che altro. C'è un altro alimentatore cinese, solo che se attacco quello là, l'alimentatore fischia, non so perché. Adesso, vabbè, io avevo fatto due cose separate. A uno avevo messo due cavetti fini, all'altro avevo messo due cavetti grossi, quindi forse per quello. Devo vedere un po', capito? Però a me adesso più che altro mi interessa mettere i ponti di rivoli, adesso lunedì mattina, metto l'alimentatore sopra il tavolo, mi piazzo con i ponti di rivoli e così almeno utilizzo l'alimentatore senza ventola, senza nulla. E questi due li lascio da parte e li userò per qualche altra cosa, per qualche linea all'esterno, magari qualche 550, qualcosa del genere. Tu con l'alimentatore cinese intendi quelli ultrapiatti, quelli per strisce LED, sì, con i morsetti, quelli che si comprano da internet o dal cinese, pochi euro. Quelli che costano 20 euro, costano 30 ampere, 20 ampere, ce n'è. Una volta ne ho comprato anche una 40, io ho pagato 30 euro, figurati tu, 40 ampere. Sì, però se fa questo casino qua, senti qua, io sono senza ventole qua, bello, c'è un silenzio di tomba. Comunque ce n'era uno interessante tempo fa quando lo prendeva Luca Del Monte, 50 ampere era 22-23 euro da eBay, credo che ne abbiano acquistati un bel po' i CB, anche un bel po', sia mai che devi alimentare, che ne so, un lineare più grosso, già tornano utili comunque. Io non ne ho voluto prendere perché, vabbè, a me piaceva l'alimentatore vero per roba radio, con strumentazione, non mi piacevano queste cose troppo minimaliste. Non sa che possa introdurre rumori, eccetera. Capito. Ah, io ho preso due di quelli, uno si è infilato dentro una spatola metallica, adesso devo mettere le balavine e lo strumento, il vostro metto, ho capito. Oppure la ventola via di stacco, la roba è agganciata, come si chiama, la metto direttamente dietro. Ti faccio il taglio dietro e la metto direttamente dietro in modo che possa raffreddare. Ascolta Antonio, gliele hai mai fatte prove? Per esempio attaccarci un lineare, no? Attaccare un tester e controllare la caduta di tensione in base agli ampere assorbiti per vedere di quanto cade la tensione in base all'assorbimento di ampere. E quelli ci dovrebbero avere un vizio. Tu li metti, adesso un B300, no? Uno a caso, e anziché 12 volte, 12 e mezzo, comincia a crollare, comincia a scendere 11 e mezzo, 11. Gli hai fatto quella prova per sapere quanto ti puoi spingere con l'assorbimento? L'hai fatta la prova? No, non l'ho fatta la prova. Beh, io ho fatto questo apparecchio qua, il 140. L'ho messa la manetta e te la cogli subito. Quando c'è il calo di tensione, il display comincia a traballare, capito? Invece qua non succede nulla, neanche la lampadina si abbassa. L'ho pilota bene e sto usando un 20A come alimentatore. Mentre il tappeto ce l'ho fuori, quello ce l'ho fuori momentaneamente sopra il tavolo. Questo lo pilota benissimo. Allora, ma col tester, sai, era per sapere la tensione di quanto crollava, se crollava, dai. Ma hai detto che lo regge bene. Magari se usi i lineari più grossi, perché sai, il Kenwood ancora, ma quando metti i lineari che hanno 100, 200, 300 watt reali, non PEP. Vorrei vedere quanto riesce a sopportare. Vabbè, quelle sono prove che farò io se prendo uno di quegli alimentatori, a parte che non c'ho ancora, non c'ho lineari grossi, io c'ho sempre quello che alla fine dà 50 watt, sarebbero 60-65, ma io uso il filtro passabasso sempre, per scrupolo, per mia tutela. Lo lascio sempre inserito, così mi toglie tutte le spurie e le armoniche e mi dà 50 watt però puliti, capito? Ho capito. Va bene, allora bisogna che faccio la prova quando viene Andrea Malicone a casa lì. Mi faccio portare su da Cagliari il 550, quello a 12 volt che c'ha lui in macchina, che c'aveva lui nella 1. Gli attacco il Condes 4000 e vediamo quanto se ne vale. Mi attacco il test e così te lo dico subito. Intanto quello suo l'avevo modificato, pompava intorno ai 400 watt, pompava, così vediamo se ne scende con le 9 metto potenza 6. E avevo cambiato il codice, avevo le resistenze per dare più pilotaggio, 10 watt di pilotaggio, così pompava molto di più. Quando stavo andando lo provo, gli dico sai il lineare che facciamo la prova a casa, vediamo quanto, se i 30 ampere si sopporta pure no l'alimentatore. Sì, è una curiosità mia. E poi una cosa, quell'alimentatore lì per strisce LED, praticamente, vabbè, nascono per quello. A quanto l'hai lasciato? L'hai lasciato 12 volte, l'hai portato a 13, 13 e mezzo, 13 e 8, a quanto l'hai regolato? Poi c'ha il trimmer. Allora, 12 e 8, il massimo che mi dà questo. Quasi 13 volte. Ok, quindi quell'esemplare massimo lo puoi portare a 12 e 8, ho capito. E già andava bene. Ok. Beh Antonio, se devi andare per Simona, cosa vuoi portare il pranzo? E adesso mi faccio un caffè, perché se rimango così cucato mi addormento e poi mi sveglio alle 7 di sera. Quindi vado a farmi un caffè in endovena, proprio me lo inietto. E poi vediamo, ci sentiremo quando capita. Ciao Antonello, a dopo, a quando capita, ci sentiamo. Ciao, saluta Simona. Ehi, è d'accordo, ti ringrazio. Altrimenti ci sentiamo dopo, pure stasera. Va bene, bocca aperta a te, se non vado lì in gelato, la frigo. Simona, sta facendo i piatti adesso, in cucina. Senti, il ragazzo che prendi, con i piatti. Va bene, ci sentiamo, ciao. Buon caffè. Ciao, ciao, Antonello, ciao. Sei pronto, né? Chi è Natalino? Perché si vede? Credevo fosse Pomponio, mi stavo parlando fino a 10 minuti fa, poi sono andato a farmi il caffè. Lui, che vita! Che vita, oi oi. La giornata è oggi è oltremodo brutta, pure coperto. Ieri sono uscito in moto, ho fatto la spesa. Oggi proprio giornata da... E tu, come vanda? Come butta? E come butta? Me ne sono alzato perché non riuscivo a dormire. C'è anche meno propagazione, almeno sui canali qua, normali. C'è più un po' più tranquillo. Sulla tripla 5 ci sono varie stazioni che chiamano. E c'è anche un'appassionata che c'ha una vocina, una donna, ragazza, c'ha una vocina molto dolce, che chiamava per fare di ex. E io ho detto, I love you, I love you. E si stavano spostando per sempre fare di ex, eccetera. C'erano anche contest ieri, lo sai. Proprio sulla banda pirata, diciamo, della 27, contest. Perché anche i pirati fanno i contest, così è. Lo so. Vabbè, lo studio come va? Procede? Procede, solo che di là non ci posso andare e devo rimanere qui su 10. E in UE? Dov'è che non puoi andare? Sulla tripla 5 non posso andare. Ma ascoltare poi, oggi è domenica, cosa credi che ci sia il furgone in giro delle scoposte? Tutto sarà due, non stanno mica ascoltando oggi. Ma non ci posso andare, come faccio? Con cosa ascolto? Ah, è vero che tu c'hai il 3900 omologato, non ce l'ha quella banda lì. Ci vorrebbe un pizzico di fantasia. No, questo lo lascio così. La tripla Imbe, lo ti volevo dire, niente da. E ci sono giornate che poi non proprio ne voglia di commissioni da fare qua, sempre un casino. E quindi volevo spostare un po' sui 40 metri a vedere se c'era movimento. Quel ricevitore c'ha un dito di polvere sopra, quello HF, quello piccolino, quella radiolina. Non è che sono legna verde io, se no voglio ascoltare. Almeno quel ricevitore ti passi le serate, capito? Se non c'è nessuno qua, ascolti lì, 20 metri, 40 metri, 80 metri la notte, eccetera. Purtroppo c'ho quel ricevitorino piccolo qua, quello preciso al tuo, e boh. Anche tu l'avevi preso l'XH data 808? No, negativo, c'ho quell'altro. Sai che non me lo ricordo, se me l'avevi detto non me lo ricordo. sono belli anche questi malachite, malaite, malaitu, quelli col display ti fanno vedere il waterfall, o come si chiama, waterfall, ti fanno vedere la banda, no? Però alla fine è tutto scena, a me interessa molto il succo, a me interessa ricevere senza troppi effetti speciali e colori ultravivaci, ecco. Ho capito. Ma io ho solo questo ricevitore per le bande di su, quando parlano pure vanno benissimo, e questo qui, non c'ho altro qua. Quindi... Ah, ma tu stai dicendo ricevitorino VU, quello Uniden oppure Albrecht? No, per l'HF dicevo, non ti eri attrezzato per ricevere, no. Io ho convinto che l'avessi preso uguale al mio, l'XH data, per l'HF va da 1 a 30 o 0 a 30, non mi ricordo adesso. Quello è diciamo il fratello povero ma ben funzionante del Texun, che costa molto, ma se costa 150 euro quasi adesso, il Texun 6 a 60, stanno rincarando tutto, Natalì, sono dei ladri. E anche l'effetto della guerra c'è. La guerra che non è a casa nostra, quindi stavo dicendo a Antonello poco fa, queste sono crisi pilotate, cioè prezzi gonfiati ad arte dagli soliti speculatori. D'altronde poi l'Italia non è che fa il blocco dei prezzi come fanno certi paesi che dicono per evitare speculazioni da oggi blocco dei prezzi, quello che costava ieri costerà domani, non lo fanno, perché poi si guadagna anche lo Stato, cioè più uno vende l'olio caro, più paga tasse, più lo Stato si fa soldi, capito? È tutto magna magna. Va bene. Ho dato anche la prolunga, credendo che era la prolunga dell'altro microfono, ho dato la prolunga dell'MB più 4, adesso non la posso attaccare che è troppo corto. Ah, quando hai dato la roba? È un peccato però, e poi le prolunghe vogliono rifatte o ricomprate, più che altro rifatte, quella è semplice. E vabbè, mi manca lo spinotto a 4, se no me l'avrei già fatto. Sì, Natalì, io sto utilizzando quel microfono KPO, KPO sull'HR 5005, alias 6009. Non lo posso alzare più di tanto perché se no fischia, perché mi fa un po' da monitor leggermente, capito? È una pecca di questo apparato, del 6009, una pecca comune a tutti questi apparati uguali, capito? Se lo alzo appena appena fischia, e quindi lo devo tenere addirittura a un quarto. Guarda, così sono a tre dita dal mic e così sono, per esempio, lontano tutto il braccio dal mic. La timbrica è buona? Buonissima, va bene. Allora, gli ho dovuto dissaldare il pin 4 al microfono, perché al pin 4 dell'apparato arrivava tensione, capito? Dava tensione per alimentare il microfono, quello con i tastini up, down, auto squelch, capito? Se no mandava in corto tutto. Va bene, ma se lo alzo appena, guarda, poco poco, Hola. Ancora tiene, sono lontano dal baracchino però, Milomi, ma lo vedi? Niente, non lo fa, lo devo tenere a un quarto. E infatti lascialo così, se no ti innesca. Ma lo so io perché innesca. Perché prima gli avevo aperto la modulazione M a questo, no? Però c'era sempre il limitatore, non contento, gli ho aperto anche il limitatore, che per quanto comunque sia sempre una modulazione limitata, adesso è ancora più aperta di prima, capito? Però col mic originale, poi col mic normale è un bijou, non è bisogno nemmeno di amplificato, capo. Sì, infatti. Invece questo è tutto chiuso, tutto così com'è dalla fabbrica. Noto una cosa, questo 5005 scalda e quando moduli, che sei al massimo dei watt, che sono 12, sarà le alette di etero, però scaldicchia, quando fai botta risposta, non che sei qui in due solo sul canale, già scalda un bel pure. Vabbè, conta che siamo in estate. Infatti. Oh signor. Sì, spero entrasse qualcuno per ascoltarmi più che altro. Per ascoltare, se no davvero attacco il ricevitorino e ascolto 20 metri, io ho 40 metri, vediamo se c'è qualche disperato che sta modulando. E ci sono i contest la domenica, il sabato. Però vedi, i contest sono più pallosi. Chiamata, segnale, ok, un altro. Chiamata, segnale, un altro. Preferisco più le discussioni, il salottino di radioamatori, capito? Che parlano tranquilli del più del meno, del per del diviso, eccetera. Contest proprio non mi si valani, cioè è palloso da ascoltare, francamente. E infatti, sugli 80 alla sera ci sono, sui 40, che fanno le chiacchierate, là, come possiamo fare noi? Vado a recuperare il cellulare che è disperso, ce l'ho nell'altra camera. Un attimino, mi serve anche un consiglio spirituale da parte tua. Ehi. Che sta bene la politica, stai facendo una bella lampa, sei cazzo, figurati. sembra che sia usando dei fitti 101 Dicas con quel microfono. Comunque c'è anche la voce un po', sono sotto di un'ottava perché c'è un po' di raffreddore, mi ha preso un po' la gola e eccetera eccetera, e sono contento, dai, aspetta che abbassi il ricevitore. Ho visto dei canali su 20, 21, c'è la Romania, cazzo c'è, arriva a Santiago 8, 9, bubu, tutta cazzo che proprio c'è. Però è, di quella propagazione che ti lascia i canali puliti, non è quella dove tutti i canali sono un mondacciaio. Ti lascia molti canali belli puliti e in qualche canale c'è una preparazione discreta, non eccezionale però. Ho provato ad ascoltare 40 metri così, con il ricevitorino e la 5 ottavi, però me ne stavo scendendo il lato delle ginocchia. Ho staccato tutto. Come mai, come mai? No, io di solito la propagazione la sentivo, mi faceva anche piacere addirittura. Allora, vediamo un po', qui c'è la verticale, ci dovrebbe essere. Ah, senti. Sembrano qua, cazzo. E quello dov'era? Il 20? No, no, no. Canale 10 PMR. Canale 10 PMR, che non ho mai capito quale sia. Ho visto delle tabelle, ma erano tutte incasinate. Hanno fatto un pasticcio tra i canali di PMR analogici e quelli digitali. Scusa, DMR, no, è PMR. Arriva a fondo scala questo. Ah, tra l'altro. Ma belli, belli popolosi tutti e due, stanno parlando normale, bella cosica, me l'ho pensato l'antenna la multibanda, per essere il punto esatto, guarda, per dove puntare, dove entra il segnale della cosica. Immaginati qualcosa, con il Mofeng, fondo scala. Ma tu sei in alto, Antone, e qua, vabbè, in un fosso non arriva nulla qua, cioè, almeno un ricevitore antenna sul tetto, però troppa perdita, figurati, 50 metri in HF, cosa arriva? Nulla arriva. Ma senti le cazzo chiare così, cazzo, non è che sia roba di tutti i giorni, no? Mica non sono qua, me, ce ne sono chilometri da fare. Beh, segnale le Mofeng arriva a fondo scala. Magari c'è propagazione troposferica, tra l'altro è quello c'è caldo qua. Se vuoi vedere il sito VHF troposcatta diventa tutto viola, qua, quel rosa violetto che vuol dire che c'è la massima propagazione troposferica. Se adesso lo guardo, vediamo com'è la situazione. Ok, controlla. Sì, qualcosa c'è, non è estrema. In generale sono un po' di azzurro, di verde, di giallo. Invece di vedere già Turchia, ancora più a est, proprio diventa rosso, rosso e ciclamino, che praticamente è una propagazione troposferica folle, che in PMR ti fai centinaia di chilometri così, basta essere un po' con l'orizzonte libero. Penso di sì. Penso che ne fai chilometri. Ho visto un tipo che ha fatto la registrazione, infatti che si è fatto 30 km questo con quel PMR della Blondi, quello è rimasto secco, dice dove dovevo stare facendo, ha pigliato, l'ha detto non solo la zona di Milano che era, dice ma tu sei stato a 30 km da qua, e quello l'ha risposto, dice io sono in alto. E siccome lui stava usando una parecchia radio amatoriale, ha detto no, io sto usando un Mofeng, cioè non un Mofeng, uno di quei portati gli ha detto tipo Blondi sto usando. No, scusa Antonio, ho sbagliato mappa, quella era del 4 di non so quando, ho preso quella di oggi. Non oggi 4, ecco. No, no, c'è tra Corsica e Sardegna una propagazione troposferica abbastanza folle. Praticamente tra Spagna e Sardegna è tutto viola, violetto, caspita, molto molto più favorevole di quanto ti avevo detto prima. Quella era una mappa vecchia del 29 marzo, aprile, maggio, questa di oggi, ed è bella, bella variopinta la mappa, dai. Sì, no, ma sono senza essere in ponte questi. Sono in chiaro tutti e due, capito? Senza fare ponte né niente, l'altra volta c'erano due, stavano dando il ponte, invece questi si parlavano solo in chiaro. Quindi noi siamo dall'1 all'8, loro evidentemente la possiamo dall'8 in poi. Questa frequenza qui potrei parlarsi, capito? Faccio una cosa allucinante, si deve ricerca. Sembrano qua, sai, tutti e due. Sì, diciamo che loro andranno lì anche per fare servizi, per avere frequenze più libere, fare servizi magari un po' più importanti. Magari non sono turisti o quant'altro, magari stanno facendo roba più seria, più utile, e gli serve frequenza libera. No, no, stanno parlando normalmente, non stanno usando nessuna, non stanno facendo nessun servizio. Si sento parlare normalmente, senza, come stiamo facendo noi, capito? Io. Caro Antonio, l'ho mangiato, vedi? Qua a pranzare abbiamo fatto colazione tardissimo. Francamente poi abbiamo preso un caffè allora che ti ho detto io, e quindi mi ha tagliato l'appetito completamente. Chi è che sta urlando? Sei tu? No, sono ospito nessuno. Oh, io gli ho mangiato a pranzo. Ieri notte mi sono svegliato, alla 1:30 mi sono svegliato a chiudere tutte le finestre. Poi mi sono riaddormentato, stamattina mi sono svegliato verso le 7:30. Ho messo si vuole, cioè magari a letto ancora, che è presto. Poi lì mi sono riaddormentato, dopodiché lì alle 9:30 è andato al bar, si è pigliato il coso, due cappuccini, si è preso. E poi è diventato a casa. Adesso domani mattina devo uscire presto ad andare lì a corso, dove c'è il centro delle vaccinazioni, per un documento di Simona lì all'Izzetto. E poi mi faccio un giretto da corso, passo da Ricco, bevo una birra e poi me la stacco a casa. Tutto lì. Dopodiché pranzo e poi non so se la giocata, se non c'è caldo mi faccio la passeggiata col cane. Aspetta un po'. Si salta nel 29, sento una specie tipo boiana. E dove? Lo senti tu qua? Sì, c'è la tenda che sta sbattendo. Tu la si alza il nuovo vento. Poi in realtà il vento si alza, di colpo, vabbè. Amo solo la mattina adesso, è arrivato un colpo. Vabbè, me la butta per terra, ma non è già la porta, non è la piena. Vediamo se lo senti. Aspetta, c'è un break in FM, chi è? Manda avanti. Non lo so. Sono in AM. Intanto arrivava qualche colpo di vento, va. Sì, perché poi qua, tra questo è palazzo e quest'altro, si forma una specie di turbine, fa proprio senti proprio il fischio mi. Adesso non te lo so imitare. Poi si alza il mic e fischia, fai una rabona. No, non il mic fischia, non fischia il mic, fischia l'apparato. Ah, è tuo? E beh. Fischia sì. 10, oggi più di sua. L'hai vista le tonsille? No, ho visto lo stomaco, è biondo. Yeah. Eh sì, è biondo, bisogna appienarlo. Oggi mi sa che mi mangio quelle lasagne di ricotta e spinaci, buona rete. Poi già belle pronte, le metti in forno, 20 minuti e sono fatte. Mi mica un fischio, va. Che futta che mi dà.